Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti, Metodica. Per ascoltare Radio RCS le frequenze sono 98.6 per la bassa veronese e zone della Lessinia e 101.5 per Verona città e rimanente provincia. Radio RCS la potete ascoltare anche in streaming e in podcast dal sito www.radiorcs.it. Si va avanti nel viaggio col prog rock inglese di quegli anni, siamo nel territorio prog sinfonico, questa volta con alcune delle band più rappresentative. Primo brano dei Moody Blues, storica band tra le prime a diffondere questo genere, si intitolava Ride My Seesaw ed è uscito nel disco In Search of the Lost Chord del 1968. Un musicista qualche settimana fa mi ha fatto notare, oltre alla cura degli arrangiamenti, che di band con queste capacità vocali d'assieme non se ne trovano più. Voi siete d'accordo? Sì, se escludiamo i gruppi vocali di X Factor, in effetti non ci sono quasi più le band con tutti i componenti o quasi che cantano e ce fanno le armonie molto vocali. Poche. Sì. Credo che non vada più neanche tra virgolette di moda. Adesso sì, c'è la band col cantante singolo e al limite qualche coro di qualche altro musicista, però non è più, è una cosa particolare il gruppo dove tutti cantano. Una quasi band che si avvicina un po' al nostro genere sono Shadow Gallery, che loro usano molto cori fatti a 3-4 voci. So che un po' tutti loro cantano, chitarra, basso, tastiera, sono tutti cantanti. Esibizioni live, so che ne avete fatte poche ma significative prima di lanciarvi a promuovere il disco, come sono andate? Beh, direi bene, perché comunque la gente ha apprezzato molto i brani che stava ascoltando anche se li sentiva per la prima volta, il che è molto lusinghiero perché comunque vuol dire che la musica che facciamo piace. E qualcuno ci ha anche detto, ma questi dischi, pensate, queste canzoni, pensate di inciderle su un disco, pensate di registrarle? È normale, insomma. Sì, infatti. Sì, ma nessuno si è proposto di pagarci la spesa, però. Abbiamo dovuto sganciare. Mille complimenti. Complimenti, ok, però alla fine sganciamo noi. Comunque eravamo ancora prima della registrazione, dovevamo ancora iniziare a registrare il disco, però avevamo già il progetto, poi alla fine si è realizzato, per fortuna. Nel 1970 esce il secondo disco di Barclay James Harvest intitolato Once Again, da cui ora ascoltiamo la commovente Song for Dying. Two of them watched in the dawn's early light, and two of them died in the morning. Search not your soul if you want to be right, but two of them died in the morning. It's not for you we cry. Others who are gone, two and by two in the dawn's early light, all went to die in the morning. Search not your souls for the truth and the right, for all went to die in the morning. We'll be right back. the lives of others who are gone. Forget the lives of others who are gone. Forget the Nonostante siano passati 39 anni, la musica di Barclay sembra essere ancora attuale e presente nei lavori di nuove prog rock band. Un parere dei Metodica. Molto bello come brano, molto belle come sonorità. Veramente non sembra un brano di 39 anni, soprattutto la chitarra che lavora sotto finché gli altri suonano ha un suono che proprio non sembra assolutamente datato. Mi ha sorpreso molto, bello, bello come brano, bellissimo, mi è piaciuto molto. Il vostro disco si intitola Searching for Reflections. Come avete scelto questo titolo? Allora, il titolo è stato preso da dal testo di Machine, che è il brano conclusivo del disco. Searching for Reflections significa cercare riflessi, nel senso di cercare il proprio sé, cercare se stessi davanti agli altri. Questo concetto di ricerca di se stessi è rappresentato anche dalla copertina, dove c'è questa persona che si specchia, però non si vede in viso ma si vede di spalle. Infatti volevamo con questa immagine esprimere un po' il concetto di quello che è contenuto nel disco, un po' un cercarsi da vari punti di vista. E questa qua ci sembrava l'immagine più adatta a rappresentare un po' il contenuto delle canzoni, il contenuto del disco. Ecco, per cui nasce da questo. Chiudiamo allora la seconda parte con gli Argent, band guidata dall'ex Zombies Rod Argent, dal chitarrista Russ Ballard. Ha lasciato una piccola traccia nella storia del rock e una serie di dischi da riscoprire. Dall'album Ring of Hands del 1971, la canzone Celebration. Rock Legends ritorna per la terza e quarta parte con l'ascolto di alcuni brani del disco Searching for Reflections dei Metodica.